Siamo qui con Antonella Bundu, candidata per... Scusami. Va bene, entrare. Scusami. Scusi anche No. lei. Siamo qui con Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa. È venuta oggi a Cava dei Tirreni per supportare la campagna elettorale di Campania Popolare. Parlaci un po' di te, Antonella, e racconta com'è stata la tua esperienza. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie anche della domanda. Sono stata candidata a presidente della Regione Toscana per le ultime elezioni regionali che si sono tenute ora in Toscana il 12 e 13 ottobre. Beh, la lista unitaria che raggruppava i partiti di sinistra che potevano e volevano essere, vogliono essere un'alternativa al blocco che vediamo adesso del centro-sinistra, il cosiddetto Campo Largo e del centrodestra, si chiamava Toscana Rossa, che raggruppa i partiti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile. Abbiamo, nonostante quelle che erano le previsioni, abbiamo raggiunto un risultato, diciamo, che si aggira intorno alla soglia di sbarramento, il 4,51 per la lista e il 5,18 per la candidata presidente. E stiamo aspettando, nonostante la proclamazione non ci ha visto eleggere direttamente come espressione di questi oltre 72.300 voti che abbiamo ricevuto, stiamo procedendo con quello che è un ricorso per vedere riconosciuta questa necessità di avere una voce all'interno del Consiglio regionale. Come stavo dicendo, è una lista che non nasce direttamente sotto all'esigenza delle elezioni regionali, perché da anni lavoriamo insieme sul territorio, insieme anche ai vari comuni, insieme nei vari consigli dove siamo presenti, nei consigli comunali e anche nei consigli di quartiere con le altre forze di sinistra. In questi ultimi giorni sei stata in Campania. Che clima politico hai trovato e cosa ti senti di dire ai nostri candidati di Campania Popolare? Allora, ai candidati di Campania Popolare, se mi sento di dire, mi raccomando, dite che va votata sicuramente la lista. Fate capire che siete davvero un'alternativa, perché l'importante è far vedere che noi siamo quello che facciamo senza ambiguità e senza nessuna confusione rispetto invece a quelle che offrono, diciamo, gli altri schieramenti. Fare vedere e capire che è vero che siamo sul territorio e non nasciamo adesso, sia come Campania Popolare, sto usando il noi perché penso che sia un'esperienza che parte dal basso, che è sul territorio da anni, simile a quello che abbiamo avuto in Toscana. Dunque, di credere in quello che stiamo facendo. La cosa più importante è riuscire ad arrivare alle persone, nonostante tutti gli ostacoli che ci stanno mettendo, far capire alle persone che è un'alternativa vera dal programma, e penso che anche loro siano gli unici che hanno presentato un programma così come abbiamo fatto noi in Toscana, dove i vari schieramenti si sono solo messi sul vota noi, altrimenti arriva quest'altro, senza invece fare vedere qual è il nostro programma per la pace, per il lavoro, per l'ambiente. Per la dignità, del territorio e delle persone che ci abitano. L'ultima domanda, Antonella. Quali azioni state immaginando da fare nella vostra regione come Toscana Rossa? Riprendendo quelle che sono le parole d'ordine che abbiamo portato avanti nella campagna elettorale, sicuramente tra le prime cose, oltre chiaramente a chiedere che ci sia un cambio nella legge elettorale, perché ricordiamo solo il 47% delle persone sono andate a votare proprio per questo fatto che si vede che non c'è una vera rappresentanza, chiederemo con forza che vengano applicate delle politiche per far sì che si riescano ad abbattere quelle che sono le liste d'attesa nella sanità, che ci siano sia per chi lavora come personale sanitario che in graduatoria, che ci siano delle assunzioni straordinarie, che si parli di pace, in particolare nella nostra regione fortemente militarizzata, dove ci sono non solo nuove sedi NATO, così come è stato, ce n'è una inaugurata da poche settimane proprio su Firenze, dove ettari di quelli che sono dei parchi vengono utilizzati invece per addestrare militarmente interi reparti, dove si spendono milioni di fondi anche regionali, ma soprattutto a livello nazionale, senza che la regione dica che noi si vuole invece una pace, così come abbiamo visto dalle manifestazioni che ci sono state anche, cioè, in tutta Italia, ma sicuramente anche il 3 ottobre a Firenze c'erano 100.000 persone che sono scese in piazza per dire no alla guerra, dunque andare contro a quello che è un'economia di guerra che ci sta preparando anche il governo a livello nazionale, ma anche quello regionale a guida PD non sta facendo niente per contrastare questa economia di guerra e per dare una risposta che sia una risposta di una costruzione della pace. Benissimo Antonella, ti ringraziamo tanto per averci dedicato il tuo tempo e aver risposto alle nostre domande. Grazie a voi, alla prossima.